L'assobio al sole, sapore di sale, temperatura check, tutto normale. Creme solari, oli igienizzanti, partita beach boy, ammollo coi guanti. Stories con lo fit del giorno meno fit dell'anno scorso, metto un filtro e lo nascondo. Sneakers, Gucci, Bauletto, Prada e il top. Stasera faccio la brava col DJ, sogni una ship ballando Siren Beat. Slow-mo selfie taggata ai tropici, tutti sanno che sei a Rimini, notte rosa con la vest, bocciate all'alcol test. Mood after pande, musica e festa.